Si sente un assordante suono che turba ogni silenzio. Non potrei dire che è fatto buio senza aver prima alzato la testa. Non ho mai detto di aver fatto meglio di schifo. Non faccio altro che saltellare da un sasso all'altro. E i prati, le nuvole, il cielo, ormai sembra tutto un po' diverso, così diverso come me stesso, così diverso come me stesso. Ma sai, è che la sabbia è fragile, quasi come te. Ma sai, il destino si spezzerà come me e te. O forse sbaglio io, o forse l'errore è stato tu. Adesso ci guardiamo, ma non ci tocchiamo. E sei distante, lo sono anche io. Non ci pensiamo, mento, ti penso solo io. Ma sono come il vento contemporale di quelli grandi che non stanno ad aspettare. E tu sei come l'aria, come le parole, e fragili respiri come se. E sono come il vento contemporale di quelli grandi che non stanno ad aspettare. E tu sei come l'aria, come le parole, e fragili respiri. Tu sei come il mare, oh oh. Oh oh oh, oh oh oh oh. Ma sai, è che la sabbia è fragile, quasi come te. Ma sai, il destino si spezzerà come me e te.